La canna e la quercia da Favole di Jean de La Fontaine tradotto da Emilio De Marchi registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi luglio 2007 Roma. Disse la quercia ad una canna un giorno: infelice nel mondo è il tuo destino, non ti si posa addosso un uccellino, né un soffio d'aria ti svolazza intorno, che tu non abbia ad abbassar la testa. Guarda me, che gigante a un monte eguale, non solo innalzo contro il sol la cresta, ma sfido il temporale. Per te sembra tempesta ogni sospiro, un sospiro a me sembra ogni tempesta. Pazienza ancor, se concedesse il cielo che voi nasceste all'ombra mia sicura, ma vuole la natura farvi nascere di solito alla riva delle paludi, in mezzo ai venti e al gelo. La tua pietà capisco che deriva da buon cuore, rispose a lei la canna. Il vento che mi affanna mi può piegar, non farmi troppo male, ciò che non sempre anche alle querce arriva. Tu sei forte, ma chi fino a dimani può garantirti il legno della schiena? E detto questo appena il più forte scoppiò degli uragani, come il polo non soffia mai l'uguale. La molle canna piegasi e resiste la quercia anche ai più forti colpi del vento, per un po', ma infine sradica il vento il tronco, che mandava le foglie al ciel vicine e le barbe nel regno imo dei morti. Fine della favola La canna e la quercia. Fine del libro primo. Questa registrazione è di dominio pubblico.